Chi è l'uomo invidioso? Non sono io, neppure tu. E l'altro? Secondo il dizionario, invidioso è colui che prova invidia verso una persona o verso un oggetto particolare o che soffre abitualmente di invidia. L'invidioso è geloso, astioso, bramoso. Chi non ha mai provato invidia con astio o rancore verso qualcuno o qualcosa? Un uomo è stato arrestato dai carabinieri perché aveva profanato una tomba. Infatti, da alcuni giorni questa tomba era profanata da qualcuno che buttava i fiori per terra e deturpava la foto. La figlia si era appostata per trovare il colpevole e, con suo grande stupore, scoprì che non era altro che un suo vicino. Interrogato dai carabinieri sul motivo di questo malsano gesto, l'uomo rispose che era giunto il momento di vendicarsi di un'invidia che con il tempo si era trasformata in desiderio di vendetta. Che dire poi dell'invidia che impera nelle relazioni umane? L'invidia nelle amicizie, l'invidia per i beni che si posseggono, l'invidia per le gioie altri. Per molte famiglie una delle spese più consistenti non è tanto per il mangiare o per ciò che è necessario alla sopravvivenza, ma per il vestiario. Si cercano abiti firmati, si comprano vestiti nuovi solo per rimanere al passo con la moda. I bambini sfoggiano i completini più belli, e tutto questo per non essere da meno degli altri, per quel sentimento negativo che si prova alla vista di ciò che hanno altri e che non si possiede. L'invidia rientra nel decimo comandamento che Dio ha dato. Non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo. Questo comandamento è stato riassunto nella sola proposizione non concupire, ma il non concupire. Nessuna cosa del prossimo è implicito che non si debba avere nessuna invidia verso ciò che possiedono gli altri. L'invidia è un tarlo che, se non è identificato, corrode l'intera esistenza umana. E lo dimostra il fatto che quando Eva nel giardino dell'Eden vide il frutto proibito, fu presa dal desiderio malsano di voler essere come Dio. Questo sentimento non è altro che invidia. Eva non era contenta di quello che era, ma voleva qualcosa di più. L'invidia è dunque soprattutto non essere contenti dello stato nel quale ci si trova. Dopo queste prime riflessioni, molto probabilmente ci scopriremo invidiosi più di quanto non pensiamo. Cosa dice la parola di Dio in merito all'uomo invidioso? PR 28:2:2. L'uomo invidioso ha fretta di arricchire e non sa che gli piomberà addosso la miseria. Dunque anche la parola di Dio ritiene l'uomo invidioso una persona insoddisfatta che, per questo, ha fretta di ottenere o di possedere del denaro. Il denaro è una delle trappole più grandi che ci siano. Ha rovinato la vita di tanti uomini e di tanti bravi cristiani. Eppure gli inviti e gli appelli a non lasciarsi dominare dalle ricchezze o di accontentarsi in quello che si possiede cadono nel vuoto più completo. Il gioco d'azzardo, per esempio, rappresenta per l'Italia un'industria inesauribile, una fonte di guadagno pari a miliardi e miliardi di euro. Vi sono migliaia di lotterie istantanee, centinaia di sale per il bingo, migliaia di sale per le scommesse, vari parchi di divertimento con casinò e tante altre iniziative per catturare il cittadino che si tiene lontano dalle ricevitorie e solleticarne l'invidia insita nel profondo del cuore. Il governo non fa nulla per impedire che l'invidia sia evitata, anzi, esso fa leva proprio sul sentimento di inferiorità di molti e sul loro desiderio illecito di avere ciò che possiedono persone più ricche. Se gli uomini non fossero bramosi di possedere delle ricchezze, velocemente senza fatica, come sarebbe possibile che ogni giorno migliaia e migliaia di euro siano spesi inutilmente? Purtroppo non sono poche le vittime che rimangono intrappolate dalla dipendenza dal gioco, una situazione, questa, che si riversa terribilmente nella società e soprattutto nella famiglia. Chi non riconosce la potenza dell'invidia in merito alla ricchezza ne sarà sopraffatto. Gli uomini malvagi sfruttano l'invidia della gente e su questa costruiscono delle fortune. E come se ciò non bastasse, vi è anche l'invidia nel campo del lavoro. E C4. 4. Ho anche visto che ogni fatica, e ogni buona riuscita nel lavoro provocano invidia dell'uno contro l'altro. Anche questo è vanità, un correre dietro al vento. Non solo, si può essere invidiosi anche nel servire Dio. Paolo lo fa presente nella lettera ai Filippesi. FL 1 è un quarto vero, è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per rivalità, ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo. Di fronte a queste verità, alcune domande sorgono. Siamo sicuri di non provare invidia per chi è più bravo di noi? Siamo sicuri di servire Dio senza rivalità ed invidia? La risposta che daremo a noi stessi serve solo per verificare se questo terribile morbo ci abbia contaminato. Le conseguenze dell'uomo invidioso non sono delle più rosee. PR 14:30. Un cuore calmo è la vita del corpo, ma l'invidia è la carie delle ossa. L'invidia è uno di quei peccati che ha una ripercussione sul corpo. Non è come rubare che comunque lascia immune il corpo di chi compie tale gesto, ma l'invidia produce delle malattie, come l'ulcera o anche l'insonnia. L'uomo invidioso è capace di tutto. E non a caso troviamo l'invidia in molti tristi e deplorevoli episodi descritti nella Bibbia. In merito a Giuseppe, il figlio di Giacobbe, è scritto: Az 7:9 i patriarchi, portando invidia a Giuseppe, lo vendettero perché fosse condotto in Egitto, ma Dio era con lui. In merito agli apostoli, leggiamo nel libro degli Atti. Az 5:17-18. Allora si alzarono il sommo sacerdote e tutti coloro che erano con lui, cioè la setta dei Sadducei, ripieni di invidia, e misero le mani addosso agli apostoli e li gettarono nella prigione pubblica. In merito alla morte di Stefano sta scritto: Az 5:17. Il sommo sacerdote e tutti quelli che erano con lui, cioè la setta dei Sadducei, si alzarono pieni di invidia. Quando l'apostolo Paolo furono pieni di invidia e bestemmiando contraddicevano le cose dette da Paolo. Mr 7:7-11. Vi era allora in prigione un tale chiamato Barabba, insieme ad altri compagni ribelli, i quali avevano commesso un omicidio durante una sommossa. E la folla, gridando, cominciò a domandare che facesse, come aveva sempre fatto per loro. Allora Pilato rispose loro, dicendo: «Volete che vi liberi il re dei Giudei?» Perché sapeva che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla a chiedere piuttosto che liberasse loro Barabba. Infine, l'invidia a volte regna là dove non deve, cioè nell'assemblea dei figli di Dio. Così si è espresso Giacomo. GC 3:13-16. Chi è savio e intelligente fra voi? Mostri con la buona condotta le sue opere, fatte con mansuetudine di sapienza. Ma se nel vostro cuore avete amara gelosia e spirito di contesa, non vantatevi e non mentite contro la verità. Questa non è la sapienza che discende dal alto, ma è terrena, animale e diabolica. Dove infatti ci è invidia e contesa, lì ci è turbamento ed ogni sorta di opere malvagie. Di fronte a questo quadro, cosa dire? Signore, mostrami se in me vi è qualche via iniqua. L'invidia non è certamente da bramare e non è un esempio da imitare, ma il giusto impara dall'invidioso qualche lezione. Innanzitutto impara a non invidiare gli invidiosi, coloro che fanno il male. PR 3:31. Non portare invidia all'uomo violento e non scegliere nessuna delle sue vie. PR 23:17. Il tuo cuore non porti invidia ai peccatori, ma perseveri sempre nel timore dell'Eterno. PR 24:1. Non portare invidia ai malvagi, non desiderare di star con loro. PR 00:19. Non ti irritare a motivo di chi fa il male, e non portare invidia agli empi. Se la parola di Dio ci invita a non portare invidia ai peccatori, ciò significa che la nostra natura è portata ad invidiare coloro che fanno il male e prosperano. Dobbiamo essere onesti, nel nostro cuore dimora questo segreto peccato, l'invidiare coloro che fanno il male e in più hanno fortuna. Anche i santi uomini di Dio hanno conosciuto questo segreto peccato, ma almeno lo hanno confessato. Asaf ne è un esempio. SL 73:1-5. Certo, Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore. ma quasi inciamparono i miei piedi. Poco mancò che i miei passi non scivolassero, poiché invidiavo i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi. Poiché per loro non vi sono dolori, il loro corpo è sano e ben nutrito. Non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. B. La seconda lezione che impara il giusto è che non deve adirarsi a causa degli invidiosi per non essere come loro. SL 37. 1. Non adirarti a causa dei malvagi. Non avere invidia di quelli che agiscono perversamente. Perché presto saranno falciati come il fieno e appassiranno come l'erba verde. Cessa dall'ira e lascia lo sdegno. Non adirarti. Ciò spingerebbe anche te a fare il male. C. La terza lezione che impara il giusto è che l'invidia dei malvagi termina con la morte. E C. 9. 6. Il loro amore come il loro odio e la loro invidia sono da lungo tempo periti, ed essi non hanno più né avranno mai alcuna parte in tutto quello che si fa sotto il sole. Non è una novità che con la morte termina la fonte del nostro male, ma se gli uomini pensassero più alla morte sarebbero meno malvagi e invidiosi. La quarta lezione che impara il giusto dagli invidiosi è che l'amore non invidia. 1 Co 13:4 L'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia. Chi ama è contento del bene e del benessere del prossimo e non può invidiare. E la quinta lezione che impara il giusto dagli invidiosi è che ringrazia Dio che lo ha liberato dall'invidia, peccato comune all'incredulo. T. 3:3 Perché anche noi un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo nella cattiveria e nell'invidia. L'invidia ci fa odiare e diventare odiosi, mentre l'amore ci fa amare ed essere amati. Non occorrono altre parole per evitare che l'invidia regni nella nostra vita. Gennaio 2007. Ellero.